I criminali non sono complicati, Alfred. Dobbiamo solo scoprire che cosa vuole. Con tutto il rispetto, signor Wayne, forse questo è un uomo che neanche lei capisce appieno. Molto tempo fa ero in Birmania con degli amici e lavoravamo per il governo locale. Volevano che comprassimo la fedeltà dei capi tribù cercando di corromperli con delle pietre preziose. Ma i carri del governo vennero assaliti da un bandito in una foresta a nord di Rangoon. E così iniziammo a cercare le pietre. Ma in 6 mesi non incontrammo nessuno che avesse fatto affari con lui. Un giorno vidi un bambino che giocava con un rubino che era grande come un'arancia. Il bandito le aveva buttate via tutte. E perché le ha rubate? Beh, perché lo trovava un gran divertimento, perché certi uomini non cercano qualcosa di logico come i soldi. Non si possono né comprare né dominare, non ci si ragiona né ci si tratta. Certi uomini vogliono solo veder bruciare il mondo. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Lui quando mi ha detto qui c'è una roba lunga dietro, impossibile per me in maniera facile averla. Quindi forse è invidioso anche di quello. Provo una sana invidia perché in quel preciso istante avrei voluto essere io a indossare quella t-shirt e andarmene in giro per il negozio a farmi vedere con quella maglia. D'ombra, i vizi capitali, tutte le storie di oggi sono dedicate all'invidia. La mattina di sabato 18 novembre 2006, il cielo del Belgio è limpido come in un giorno d'estate. Il Cessna ha decollato dall'aerodromo di Zwartberg sulla strada tra Anversa e Liegi, 20 km dal confine con l'Olanda, ha superato i 4.000 metri di quota, quando lo sportellone dell'aereo si apre. E 9 paracadutisti, uno alla volta, si tuffano nel vuoto. L'istruttore Marcel Sommers, Els van Deuren ed Els Kluttemans hanno programmato di prendersi per mano e formare una figura a stella. Ma quest'ultima aspetta qualche secondo di troppo prima di lanciarsi. Le due Els, le due donne, sono grandi amiche e oltre al nome e allo sport estremo condividono anche lo stesso amante. È la persona che in questo momento sta volando insieme a loro a 200 km all'ora. È proprio Marcel, l'istruttore. In volo quindi ci sono un uomo e le sue due amanti. Raggiunta quota 1000 metri, ognuno tira la cordicella per riaprire il paracadute. Quello di Els van Deuren non si apre. Accade tutto in 12 interminabili secondi. La telecamera che Els ha montato sul casco filma i tentativi sempre più disperati di far scattare il sistema e poi la manovra di emergenza per azionare il paracadute di riserva, ma anche questa è inutile. La donna si schianta e muore. Le corde del suo paracadute sono state tagliate. La colpevole risulterà essere l'altra amante, invidiosa del rapporto esclusivo tra i due. Viene condannata a 30 anni di carcere, ma è di qualche giorno fa la notizia che ha scosso l'opinione pubblica belga, secondo cui a breve potrà tornare libera dopo aver scontato solo 13 anni di prigione. La puntata di oggi è dedicata all'invidia e racconta di una splendida t-shirt e dell'invidia di un grande architetto. Benvenuti a Linee d'Ombra. Am I feeling? 4 è il programma che vi racconta storie di Vizi Capitali, ma soprattutto che vi racconta storie. Ve lo chiediamo tutti i giorni, no? Di mandarci una storia che racconti qualcosa di voi riferita a uno dei 7 Vizi Capitali. La cosa che vi chiediamo di fare, appunto, è di mettervi lì, prendere il vostro computer o carta e penna anche, però poi dovendoci mandare un'email è un pochettino più complicato prendere carta e penna e provare a raccontarci una storia che riguarda uno di questi 7 Vizi Capitali: l'ira, l'accidia, l'invidia, la lussuria, la superbia, l'avarizia o la gola. E come si riconosce una storia? Ogni storia, insomma, quelli bravi che parlano di narrazione, di storytelling, dicono che ogni storia è un viaggio, no? Per cui ogni storia prevede che il protagonista compia un piccolo viaggio alla fine del quale è leggermente diverso. Quel viaggio ovviamente non deve essere per forza fisico. È più facile quando, ed è il motivo per cui molte persone che di solito non scrivono magari si prendono appunti quando fanno dei viaggi, perché il viaggio è in sé la struttura di qualcosa che ti cambia, che ti trasforma, per cui parti da un punto A, attraversi il punto B, C, D, magari D1, D2, magari E, magari E1, magari F, insomma avete capito, sembro un ingegnere, dal punto A al punto B, però passando da questi punti, alla fine di questo viaggio, tutti noi quando torniamo, che sia stata una vacanza al mare, che sia stato invece un viaggio in giro per il mondo, siamo leggermente cambiati. Ecco, ogni storia ha quel potere lì, ogni piccola storia, anche se avviene senza viaggiare, anche se avviene sul divano di casa tua, per cui vedi qualcosa che ti succede davanti, oppure vedi qualcosa di traumatico che ti succede davanti, ad esempio, alla fine di quel piccolo o grande episodio lì ti rende una persona diversa. Ecco, questa è una storia, questa è una struttura che vede il protagonista partire da una condizione iniziale, avere uno sviluppo nella sua storia e avere una fine, cioè avere una situazione in cui siamo persone cambiate, non migliori, non peggiori per forza, ma siamo leggermente diversi. E anche incontrare una persona in un supermercato o sul proprio posto di lavoro e vedere che ha una maglietta che tu gli invidi tantissimo, ecco, alla fine di questa storia tu sei un po' cambiato, perché hai capito che quella maglietta, che quell'incontro un pochettino ti ha reso diverso, o quantomeno ti ha fatto capire delle cose su di te. È quello che è successo a Stefania e che tra pochissimo vi raccontiamo in questa puntata tutta dedicata all'invidia. Ma qualunque sia la storia che avete voglia di condividere con noi, noi la prendiamo, ci facciamo una puntata intera. Scrivete una o due pagine e la mandate a lineedombra@radio24.it e noi facciamo esattamente come abbiamo fatto con Stefania. Mi ritengo una persona normale, con pochi vizi, a parte mangiare qualche tagliatella in più del necessario. Ma comunque mi ritengo una persona con pochi vizi, sì. Ecco, recentemente però ho provato una chiara e netta sensazione di invidia, che mi ha portato a sorprendermi. Per lavoro io indosso una divisa, è una divisa a righe gialle e blu, non proprio bellissima. Lavoro part-time in quel negozio di mobili e accessori di origine svedese. Quel negozio dove tutti, più o meno, si perdono. Non trovano le cose, mangiano le polpette di cervo e arrivano alle casse molto stanchi e alla fine non vedono l'ora di andarsene. Vedendoti con quella divisa, i clienti ti corrono incontro, ti bloccano per chiederti aiuto, dove si trova la merce, dove possono fare la spesa o dove possono fare la tessera, ad esempio. Se ci sono degli sconti, se quel mobile sta bene con quell'altro mobile, domandano come possono pagare, dove possono mangiare, quanto tempo hanno per rendere la merce, e così via. Ma arriviamo all'invidia. L'ennesimo cliente mi vede e mi ferma, mi dice di non trovare lo scaffale 20 posto 6, cerca una libreria. Con la mano gli indico lo scaffale. Si trova proprio dietro di lui. Sorridendomi e scusandosi mi dice che non aveva visto lo scaffale e mi ringrazia. Lavoro qui dal 2005 e ho ricoperto vari ruoli, da grafica, comunicazione, un po' servizio clienti, un po' tante cose. È ancora, secondo me, una buona realtà. Di solito l'interazione con il cliente finisce lì e io proseguo nel mio lavoro e il cliente nel suo percorso verso l'uscita. Sono pronta ad essere fermata nuovamente da altri clienti. D'improvviso però mi fermo e torno indietro verso quel cliente, quello che ho appena lasciato. Mi fermo di fronte a lui. Mi fermo a guardarlo. La cosa che mi ha fatto tornare indietro, la cosa che noto subito in questo ragazzo, questo uomo medio giovane, è la t-shirt che indossa. Sono ferma davanti a lui, lo sto guardando. Mi avvicino sempre di più alla sua t-shirt e mi sta montando su una roba che non riesco a trattenere, non riesco a fermare. La mia riservatezza e talvolta timidezza spariscono. Lo guardo incuriosita. È una curiosità mista a sorpresa, mista a venerazione. E inizia a infastidirmi da sola. Guardo lui e comincio a guardare bene la t-shirt. È usata, è molto usata, i colori sono un po' sbiaditi. È la grafica che mi colpisce e va dritto nel mio mondo. La t-shirt è un po' grande per lui, ma la indossa con tanto orgoglio e tanta fierezza che gli sta a pennello. Penso chissà quante volte l'avrà indossata. Penso chissà quanti complimenti e approvazione avrà ricevuto. Indossa la più bella t-shirt che io abbia mai visto negli ultimi 10 anni. E invece, maledizione, io sono qui con la divisa. Help me. Provo una sana invidia perché in quel preciso istante avrei voluto essere io a indossare quella t-shirt e andarmene in giro per il negozio a farmi vedere con quella maglietta. Avrei voluto che fermassero me per raccontare tutto di quella t-shirt e inorgoglirmi per averne una rara e piena di significato. Quella t-shirt ti identifica in una cosa ben precisa e anche io vorrei indossarla adesso. Vorrei identificarmi in quel preciso qualcosa che lui sta indossando. Decido che la voglio, non capisco più niente, è bellissima. Senza neanche chiedergli il permesso, gli scatto una foto con il cellulare e gli domando: scusa, ma dove l'hai presa? Il tizio mi sorride compiaciuto, scuote la testa, sa di aver addosso la t-shirt più incredibile e desiderabile, mi dice che gliel'ha regalata la moglie. E io provo invidia anche per il fatto che gliel'abbia regalata la moglie, perché è un regalo bellissimo che a me nessuno ha mai fatto. Questa maglietta per me rappresenta un mondo, è un mondo un po' folle, forse in quel momento avrei voluto averla io ed essere folle. La moglie è persa in mezzo agli scaffali a cercare un altro mobile. Mi dirigo veloce verso di lei, decisa ad avere tutte le informazioni possibili circa il prossimo acquisto della t-shirt che farò di lì a breve, appena finito il mio turno di lavoro. Non faccio in tempo ad arrivare in fondo agli scaffali che vedo la moglie intenta ad allattare un neonato minuscolo. Non mi fermo neanche davanti al neonato, chiedo. Mi dice che l'hanno presa tanti, tanti anni fa, in un viaggio negli Stati Uniti, ma che francamente non si ricorda neanche più dove. In fondo saranno passati, 8, 9, 10 anni. Ci rimango malissimo. Maledizione, come fa a non ricordarsi dove l'ha presa? Mi sento sconfitta e impotente, anche perché loro se ne stanno andando e non hanno più voglia di stare a parlare lì con me. Lui, la sua t-shirt, la moglie e il piccolo si allontanano. Non li vedo più. La t-shirt a cui penso e che, diciamolo, vorrei ancora avere oggi è questa. T-shirt Los Pollos Hermanos, facente parte della serie televisiva Breaking Bad, serie trasmessa via cavo dall'emittente statunitense AMC dal 20 gennaio 2008 al 29 settembre 2013, considerata da molti la miglior serie televisiva di tutti i tempi. La ciudad se llama Duke, Nuevo México el estado. Entre la gente mafiosa su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado. Dicen que es color azul y que es pura calidad. Esa droga poderosa que circula en la ciudad y los dueños de la plaza no la pudieron parar. Tenían la plaza del Duke, el Tuco y el Crazy Eight. Al Tuco le dieron piso manejando su Escalade. Un poco antes los gabachos quebraron al Crazy Eight. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. El cartel es de respeto y jamás ha perdonado. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Y así suenan los cuates de Sinaloa, mi compa. La fama de Heisenberg ya llegó hasta Michoacán. Desde allá quieren venir a probar ese cristal. Ese material azul ya se hizo internacional. Ahora sí le quedó bien a Nuevo México el nombre. A México se parece en tanta droga que esconde, solo que hay un capo gringo, por Heisenberg lo conoce. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. A la furia del cartel nadie jamás ha escapado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Linee d'ombra Radio 24 è una puntata tutta dedicata all'invidia. Come sapete, appunto, scegliamo una storia, la storia che ci manda un ascoltatore, partiamo da lì e poi sviluppiamo tutta una puntata. Quando ci è arrivata questa storia, la storia di Stefania, ci siamo domandati che tipo di storia fosse, nel senso che quasi sembrava un thriller all'inizio, non si capiva quale fosse l'oggetto dell'invidia di Stefania. L'abbiamo capito solo alla fine, lo ha capito soprattutto chi è un fan o anche semplicemente ha visto alcune puntate di quella serie televisiva meravigliosa che si chiama Breaking Bad. Pronto, ciao Stefania, buongiorno. Ciao Matteo, ciao. Senti Stefania, io voglio sapere tutto, innanzitutto del luogo dove lavori, nel senso che tu hai fatto capire dove lavori, credo che tutti l'abbiano capito, è un supermercato di mobili, detto male, È il più famoso supermercato di mobili che c'è. Considerato come mi sento io quando vado in quel posto, che mi sento tipo una mandria che non sa esattamente dove andare, spostata di qua e di là. Il tuo ruolo in cosa consiste? Cioè, tipo avete il bastone elettrificato, di qua, di là, scaffaleotto, oppure semplicemente... Hai delle indicazioni. Poi io in realtà in questo preciso momento sono nella parte finale, che sono le casse, quindi anche lì è un bel... La parte finale sembra la parte finale della digestione. Esatto. Tu parti da sopra, poi scendi, la parte finale sono le casse. E dopo esci metaforicamente anche. va bene, sì. Stefania, stiamo invece sulla storia. Che espressione ha questo ragazzo, questo giovane uomo, quando tu lo fermi e lui capisce che tu di fatto ambisci alla sua maglietta? Ah, è un'espressione proprio di, come per dire, non so, ce l'ho fatta, ce l'ho solo io. È quello che mi ha fatto un po' scattare l'invidia. Ma perché, scusami, era difficile trovare questa maglietta? Secondo me sì, cioè io qui non l'ho mai vista, tant'è che appunto dopo mi hanno detto che l'avevano presa negli Stati Uniti. E poi è, secondo me, una maglietta datata, appunto risale almeno 5, 6, 7, 8 anni fa, quindi usata, un po' sbiadita, però portata con estrema fierezza e grande invidia da parte estrema mia. Fierezza, mi piace tantissimo, per una maglietta dove c'è scritto Lo Spollo Sermano, sì, i fratelli... I fratelli Pollo. Senti Stefania, mi racconti in due parole, insomma, io l'ho vista, la conosco e l'ho amata moltissimo, ma uno che non avesse visto mai Breaking Bad, per quale motivo dovrebbe vederla secondo te, visto che tu hai, di fatto è una forma di venerazione per questa serie televisiva? Allora, in realtà ci sono arrivata tardissimo, perché negli anni in cui andava io non avevo la televisione, non avevo tutte, quindi l'ho vista in realtà... Anzi, la sto vedendo adesso, quindi a distanza di veramente tanti anni. È un format pazzesco, ti tiene lì, cioè lo studio dei personaggi secondo me è fantastico, è scritta benissimo e ha tutti i tempi giusti e a me ha creato fascinazione totale, essendo, cioè, comunque una persona che tipo non si è mai drogata, mai toccato un tanto così di droga, sì. Metanfetamine, poi parlo adesso di metanfetamine come se fosse niente, certo. Io guarda, ho un amico che è un esperto di queste cose qua, di serie eccetera eccetera, che me l'ha spiegata molto facilmente dicendomi è la storia di un uomo che da buono diventa cattivo. Ed è un ottimo riassunto. Stefania, io ti ringrazio moltissimo per la storia. Noi ovviamente abbiamo mantenuto la privacy totale della persona di cui tu ci racconti, ma abbiamo postato solo la fotina della maglietta. Abbiamo postato solo la fotina sulla maglietta. Potete trovarla sul nostro profilo Twitter, Linea d'Ombra, o sul nostro profilo Facebook, ovviamente, Linea d'Ombra. Grazie ancora, Stefania, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille. Buona giornata. Ciao. Buona giornata, ciao. E allora adesso, con tutta l'invidia possibile, diamo la linea alle borse in diretta e poi torniamo con Linea d'Ombra. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. Ciao, sono io, l'uccellino di Uliveto. Vi porto gli auguri di buone feste, piene di salute, serenità e tanto amore da Uliveto e Rocchetta, le vostre acque della salute. Mille auguri! Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Linee d'Ombra, storie dei nuovi vizi capitali. La prossima storia che vi raccontiamo qui a Linea d'Ombra è una storia di invidia, ovviamente, ma è una storia di quasi vendetta, messa in atto da uno dei personaggi di spicco del mondo dell'architettura e dell'arte contemporanea. Arriva dagli anni 20 e racconta di una donna, un artista, che aveva progettato una casa tanto bella da fare invidia al grande architetto francese Le Corbusier, al punto che lui stesso, anni dopo, aveva deciso di profanargliela. È la storia di Eileen Gray. Noi l'abbiamo letta su un sito che si chiama Soft Revolution, firmata da Salome Sodini. State con noi. All'università non mi avevano mai detto niente del genere, né l'avevo mai trovato sui libri, dove avevo preparato gli esami di storia dell'architettura. Ricordo solamente una foto. Le Corbusier, nudo, con una vistosissima cicatrice sulla gamba, che dipinge qualcosa su una parete. Avevo presa per qualcosa di buffo e dissacrante, un po' come l'immagine di Einstein che fa la linguaccia, ma non mi ero mai soffermata a pensare dove fosse stata scattata e che cosa stesse facendo di preciso. Per scoprirlo dobbiamo prima capire a chi apparteneva quella casa e da chi era stata disegnata. Quella persona è una donna e si chiama Eileen Gray. Nata il 9 agosto del 1878 a Enniscorthy, in Irlanda, Eileen Gray studia prima disegno e pittura a Londra. Poi capisce che non è quello il suo modo di esprimersi. Scopre in un negozio di Soho la tecnica dei mobili laccati e si trasferisce definitivamente a Parigi nel 1907 per studiare con un artigiano giapponese, maestro nell'ambito di quella tecnica. Gli inizi sono modesti, la critica non sembra accorgersi di questa giovane donna che tenta di farsi strada in un ambiente per lo più maschile, scorticando mobili, mescolando ingredienti improbabili. La svolta avviene soltanto nel 1919, quando le viene chiesto di decorare il salotto di Suzanne Talbot, una celebrità della moda parigina del tempo. Eileen non soltanto lo rende quello che è ancora considerato uno degli esempi più significativi nella storia della decorazione degli anni venti, ma in un'epoca dove una donna poteva al massimo aspirare a diventare tessitrice o decoratrice, disegna anche alcuni dei mobili di casa. Il salotto di Suzanne Talbot ha un successo enorme. Piano piano tutti vogliono in casa qualcosa firmato da Eileen Gray. Tra i clienti celebri c'è perfino James Joyce. Dalle linee essenziali e pulite, il lavoro di Eileen attira l'attenzione degli esponenti del movimento moderno, tra cui J.G.P. e Le Corbusier. Fibre de verre, je ne sais vibrer qu'en paratonnerre, je suis condamné à l'éclair, la foudre éphémère, car si l'on m'aime, l'on doit me consumer, mais demain, oui demain, j'en fais le serment. J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand, sur un bel homme, un bel amant, qui laissera ma vie sauve tout en m'aimant. Fibre de verre, je me suis cassé les dents, les nez, sur bien des affaires. De cœur trop pincé, de mœurs trop épicé, car pour me plaire, l'on doit me consumer, mais demain, oui demain, j'en fais le serment. J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand, sur toi en somme, mon bel amant, toi qui as si m'attend tout en m'aimant. Suis allumée sans un éclair, sans même un brasier, juste une lueur en mon intérieur. Ta chaleur a su trouver mon cœur, mais demain, oui demain. Le Corbusier tramite Ian Badovici, un architetto rumeno che diventa il suo compagno. Sono loro che per i primi anni credono nelle sue potenzialità e la spingono verso l'architettura. Siamo nel 1924. Eileen ha 46 anni e non ha mai disegnato nulla di diverso da arredo di interni, ma ricomincia a studiare con l'aiuto del compagno. Sceglie la scogliera di Cap Martin in Costa Azzurra. Progetta una casa tutta bianca che poggia sui pilotis, i pilastrini, come le architetture di Le Corbusier, che per molti aspetti appartiene al movimento moderno, ma, scrivono gli storici dell'architettura, è dotata di una sensualità estranea alle architetture di quel tempo. Anche nella casa più piccola uno deve potersi sentire solo, scrive Aileen. E basandosi sulla sensazione di isolamento e libertà, ne progetta lo spazio. Ma la casa è anche un regalo. È un vero e proprio atto d'amore per Jean Badovici. A partire dal nome, si chiama E1027. Un codice dove la E sta ovviamente per Aileen, il 10 è la J di Jean, il 2 è la B di Badovici e il 7 è la J di Gray. Le Corbusier apprezza moltissimo il progetto di Aileen, ne diventa ossessionato, al punto di volere costruire a sua volta una casa da vacanze bianca proprio dietro la sua, come la sua. E Le Cabanon, il capanno, suo rifugio estivo, talmente appiccicato alla casa di lei che quasi ne viola la privacy. Negli anni 30 la relazione tra Aileen e Jean termina. Siamo nel 1938, quando Jean Badovici, rimasto in casa da solo, invita Le Corbusier. Il grande maestro non si trattiene e riempie di graffiti il salotto bianco immacolato di Aileen. Sono 8 murales, sono quasi offensivi, coloratissimi in quella casa tutta bianca dove, tra le altre cose, viene presa in giro la sessualità di Aileen, che non faceva mistero di essere bisessuale e aveva avuto uno svariato numero di donne nella sua vita, pittrici, cantanti, ballerine, artiste di ogni tipo. Ed è qui che torna in gioco la famosa fotografia di Le Corbusier che, nudo, dipinge qualcosa sopra un muro, quella che avevo visto all'università e che mi aveva strappato una risata, quella su cui non mi ero mai fatto domande. È stata scattata proprio nel salotto di Aileen Gray, mentre Le Corbusier, con la sua arte, ne deturpa le pareti. Non era la prima volta che il maestro sporcava le pareti delle case in cui era invitato. Anzi, spesso chi lo ospitava ne era pure felice. Badovici era ben contento di avere le pareti di casa firmate da uno dei più grandi artisti del tempo. Ma nel caso di quella casa, la E1027, sembra esserci un accanimento diverso. Una cattiveria nei confronti della stessa Aileen. Alcuni storici dell'architettura lo interpretano quasi come un caso psichiatrico. Del resto, in molti pensano che l'architetto avesse sviluppato un rapporto malato con Aileen Gray, arrivando a esserne ossessionato. Non appena lo scopre, Aileen ovviamente ne rimane ferita. Scrive parole molto pesanti all'architetto. Lo accusa di aver fatto un vero e proprio atto vandalico e di aver profanato la sua casa dove, sentendosi tradita da Jean, che non l'ha difesa, sentendosi tradita dalle Corbusier, con cui pensava di avere un rapporto di amicizia e stima, non tornerà mai più. In a white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold payment, tired starling. Dark eye, dawn light smile on you leaving my contentment. I'll wait in this place where the sun never shines. Wait in this place where the station. Platform ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station. kindness in the hard crowd. La storia che vi abbiamo raccontato sulle Corbusier l'abbiamo trovata su un blog molto bello che si intitola Soft Revolution, ragazze che dovrebbero darsi una calmata. E questo pezzo lo ha scritto Salomè Sodini, si intitola Uno spazio violato, la storia di Aileen Gray. Ora diamo la linea alle strade in diretta e poi torniamo qui a Linea d'Ombra. Ehi, è il momento del Dub Party! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, che fai, non ti scateni? Dobbiamo festeggiare, perché da quest'anno io sono in tutte le auto nuove con il sistema Dub Plus! Figo il Dub Party! E allora, party! Festeggia anche tu il grande cambiamento. Finalmente tutte le radio in vendita hanno il sistema DAB Plus per l'ascolto digitale in auto e in casa. Scopri la magia del suono perfetto. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in digital radio. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Oggi raccontiamo storie di invidia in questa puntata di Linea d'Ombra. Andiamo in Inghilterra, dove ci facciamo raccontare la storia della guerra dello champagne dalle parole del cosiddetto calciatore misterioso. Il calciatore misterioso è stato un caso editoriale assoluto, esploso una decina d'anni fa, quando un giorno sulle pagine del Guardian un calciatore della Premier League, cioè la Serie A inglese, ha iniziato a raccontare il retroscena della vita dei calciatori. In questo episodio ci troviamo in un locale di Las Vegas e l'invidia per un gruppo di giocatori più famosi costerà molto al calciatore misterioso e ai suoi compagni. State con noi. Sono stato in quasi tutti i club e i bar alla moda che valga la pena frequentare e ho assistito ad ogni genere di spettacolo. Ho presenziato a tutte le serate più importanti di Ibiza, sono stato a Tokyo, ho provato il meglio della Gran Bretagna e di gran parte d'Europa, compresi gli Ice Bar in Svezia e il Burlesque di Parigi. Ecco, fatta questa premessa, posso dire in tutta onestà di non avere mai visto nulla come il Tao di Las Vegas. Prendemmo un tavolo con un minimo di spesa di $5,000, il che non era un problema, visto che una bottiglia di Dom Perignon costava circa $1,500. A Las Vegas è assolutamente fondamentale avere un selezionatore, una specie di concierge. Lui conosce tutti in città, può trovarti i posti in prima fila ad ogni spettacolo e i tavoli migliori in discoteche, ristoranti e feste a bordo piscina. Ha elicotteri e limousine sempre disponibili, ha accesso a tutte le donne che un uomo possa desiderare, come ci mostrò ampiamente durante quella serata al Tao. Appena ci fummo accomodati, Jess, si chiamava così, ci presentò ai proprietari e spiegò chi eravamo. 5 minuti dopo, una parata di donne straordinariamente belle cominciò a sfilare davanti al tavolo. Ogni volta che ne vedevamo una di nostro gradimento, dovevamo soltanto dirlo a Jess, che la faceva sedere tra di noi. La cosa per me fu estremamente imbarazzante, ma queste ragazze fanno migliaia di dollari a notte, e chi sono io per giudicarle? Dietro di noi c'era un altro tavolo con alcune autentiche star, tra cui un giocatore del Barcellona. Restavano un paio di posti liberi da noi quando ci passò davanti una donna davvero da urlo. Tutti ci alzammo e all'unisono gridammo: «Lei!» Il fatto è che la ragazza non era passata inosservata nemmeno al tavolo dietro al nostro, e quando Jess riapparve dopo essere stato convocato da loro, ci rendemmo conto di non essere poi così importanti come credevamo. Jess disse: «Ragazzi, al tavolo qui dietro mi hanno chiesto di riferirvi che qualsiasi offerta facciate per questa ragazza, loro la raddoppieranno». Li portammo fino a $5,000, cosa che servì solo a mettere in imbarazzo tutti gli interessati, visto che, come abbiamo poi scoperto, non era raro che alcune di queste ragazze attirassero cifre fino a $30,000 a sera in cambio della loro compagnia. Qualsiasi extra era poi a discrezione della ragazza ed era oggetto di nuova trattativa. O almeno, così mi fu detto. Noi cercammo di calmarci, ma la nostra accortezza finanziaria durò pochissimo. In realtà, da quel momento, le cose presero la direzione diametralmente opposta e con esiti spettacolari. Uno di noi, infatti, offeso mortalmente perché il tavolo dietro ci aveva soffiato la ragazza, li sfidò a una guerra di champagne. Si tratta di un leggendario sfoggio di moderna virilità. Funky life, I've been told, all it glitters isn't that gold. No, gold is not reality, mama. Real is what you leave on me. La guerra dello champagne consiste in questo. Se due tavoli iniziano a starsi sui nervi, uno dei due invia all'altro una bottiglia di champagne. L'altro dovrebbe poi ricambiare e si va avanti finché il conto non diventa troppo salato perché una delle due parti sia in grado di pagarlo. si tratta a tutti gli effetti di una partita a poker con tanto di bluff e contro bluff. Se un tavolo continua a giocare senza poterselo permettere, sarà costretto alla fine a subire l'onta più grande, cioè la security lo scorterà fuori dal club, tra fischi e urla di scherno. Il mio amico non aveva intenzione di perdere due volte nella stessa sera. Chiamò Jess, gli chiese di inviare al loro tavolo una Jeroboam di Champagne Crystal, mentre la bottiglia da 3 litri raggiungeva il tavolo, metà dei clienti del locale la seguirono con lo sguardo. Quando il nemico rispose inviandoci una cameriera con esattamente la stessa bottiglia accompagnata da 12 shot di tequila, partì un applauso in tutto il club. La guerra di champagne era iniziata. 10 minuti dopo il mio amico risponde inviando 10 bottiglie di Crystal di dimensioni normali, con in ciascuna una cannuccia, un ombrellino e una stellina, per vedersi portare in tutta risposta quasi istantaneamente una cassa intera dei Dom Perignon Vintage del 1998. Una situazione del genere può precipitare alla svelta, perché il manager di sala manderà automaticamente altre ragazze a sedersi ai tavoli per bere tutto quello champagne, fomentando la guerra, e ogni ragazza ovviamente verrà pagata. Nessuna delle due parti mostrava segni di cedimento e inevitabilmente il mio amico riuscì a convincere alcuni dei nostri compagni a contribuire alla sfida. In occasioni particolari il club può fare volare le bottiglie sospese su dei fili verso i tavoli, e questo fu quello che facemmo. Insomma, se puoi permettertelo, Las Vegas farà qualsiasi cosa per te. L'altro tavolo apprezzò e si alzò in piedi per applaudire. Ci sedemmo in attesa della replica e poco dopo le stesse bottiglie di champagne, vuote, sorvolarono la pista tornando verso di noi con sopra attaccate 5 bandierine bianche. Uno degli avventori del tavolo sconfitto si avvicinò al nostro tavolo complimentandosi e offrendosi di dividere il conto con noi, il che mi fece sospettare che forse eravamo stati l'ennesimo bersaglio. Il conto finale fu di $130,000. Io avevo messo ben in chiaro con gli altri che non volevo partecipare, ma non potevo restare a quel tavolo e pagarmi solo i miei drink. Sarebbe stato ridicolo. Sapevo bene come sarebbe potuta finire la serata e sapevo cosa significava per le mie finanze andare a Las Vegas assieme a quel gruppo di calciatori. Io non opposi resistenza quando al momento del check-out dall'hotel dovetti pagare un conto finale di $14,000 che comprendeva un servizio in camera esageratamente caro e una gita in elicottero al Grand Canyon. Il club faceva parte dell'hotel, quindi il conto era stato addebitato sulla camera ed era stato chissà come e chissà da chi diviso equamente. Making me feel this way about him. Vi auguriamo uno splendido fine settimana di chiusura di queste vacanze invernali e natalizie. Noi torniamo lunedì, anche se la Befana, noi ci siamo alle 15 puntuali per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!